X24, i gialli della storia. È il 13 luglio. La mia mente è fissata su quella parete. Su quello stramaledetto seracco in mezzo alla parete. È una missione pericolosa. Probabilmente affronteremo la montagna come degli assalitori di prima fila in guerra. Ma invece delle armi avremo le piccozze e i ramponi. Noi siamo partiti il 14 luglio, proprio di notte alle 10 di sera, proprio per affrontare il primo pezzo di parete di notte. E attaccati a questa parete, solo noi tre, lì in mezzo, a sentire questo silenzio che è difficile descrivere, era proprio qualcosa di speciale, sembrava come nascere ancora una volta. A un certo punto ci siamo fermati, finito la grande seraccata di 200 metri. Abbiamo detto adesso cerchiamo un posto comodo per montare la tenda. Carl è andato per primo, Simon era secondo e io ero un po' indietro. Mi ricordo che si vedeva una leggera fessura nella neve, però era proprio stretta, sembrava un piccolo crepaccio, una spaccatura leggera. E mi ricordo che Carl provava proprio coi scarponi, coi piedi a picchiare giù la neve per vedere quanto è largo questo crepaccio. E proprio purtroppo in quel momento lui è sparito davanti a me. Ci ho detto, ma dov'è Carl? No, Simon mi dice è caduto giù. Ma come è caduto giù? Lì ho iniziato un po' a capire un po' quello che era successo. E il Walter mi ha calato giù nel crepaccio. Da un angolo si vedeva anche giù proprio solo buio. Voleva dire che doveva essere molto profondo. Ho iniziato subito a scavare a mano e proprio all'improvviso ho sentito qualcosa di morbido. Ho liberato subito il viso per vedere se respirava ancora o... Però purtroppo subito la prima vista ho capito che lui ormai era già... Per Carl Unterkircher la montagna era una passione fortissima, viscerale. Ne aveva fatto la sua ragione di vita nonostante la famiglia e tre bambini piccolissimi. Era diventato il migliore, il solo ad aver scavato l'Everest e il K2 in soli 2 mesi. Ma lui che nella montagna cercava la vita l'ha persa in un crepaccio sul Nanga Parbat nell'agosto del 2008. La chiamano la montagna del diavolo, la mangiatrice di uomini, la montagna assassina. È la storia di oggi, è una storia di uomini che vivono al limite tra sconfitte e trionfi, la storia dell'uomo contro la natura. E la storia della conquista del Nanga Parbat comincia molto tempo fa. In un paese lontano, al confine tra India, Pakistan e Tibet, dove l'Himalaya cede il suo territorio alla catena montuosa del Karakorum, c'è un ultimo gigante solitario e bellissimo. È una montagna misteriosa, 8.125 metri di roccia e ghiaccio, abitata solo dal vento, dalle nuvole e dai rumori sordi delle slavine. E da sempre esercita un'attrazione irresistibile in uomini appassionati e coraggiosi. È qui che alla fine dell'Ottocento è nato l'alpinismo himalayano, il mito degli 8.000. Ed è qui che è iniziata la sfida tra le nazioni per la conquista delle cime più alte del mondo. Albert Mammery, Willy Merkel, Willow Welzenbach, Günther Messner, Carl Unterkircher. Molti sono gli alpinisti, i grandi esploratori che per realizzare il sogno di calpestare le nevi inviolate del Nanga Parbat hanno perso la vita, consacrandola per sempre alla montagna. Tutto ha inizio nel 1895. Suona come una favola, eppure già alla fine dell'Ottocento un uomo sotto le pendici del Nanga Parbat guarda in alto e sogna di afferrare le stelle per entrare nella storia. È l'inglese Albert Frederick Mammery e il suo è il primo vero attacco di un uomo a un 8.000. Con lui parte Norman Colley che, in un diario, racconterà questa folle impresa. Un intero deserto di ghiaccio si spinge fin lassù ai pendii più alti della grande montagna. È un gigantesco circo glaciale. Storicamente parlando, questa spedizione a Nanga Parbat nel 1895 è una delle spedizioni più importanti che mai sia stata fatta. Bisogna sapere che allora gli inglesi erano i padroni dell'India. E Mamarin, avvicinandosi all'Himalaya, arriva automaticamente al versante sud del Nanga Parbat e lì si ferma e vede impossibile. Sono 4.500 metri di parete, non era neanche pensabile salire. Non devi essere delusa per il Nanga. Ho fatto delle splendide arrampicate, ho visto picchi e pareti come le Alpi ed il Caucaso non possono offrire. Domani attraverserò con due Gurkha su un passo verso la valle Rakhiot. Se la parete è facile, posso ancora farcela. E tu riceverai un telegramma prima che questa lettera ti arrivi. Ma quella lettera non arriverà mai. Mentre Mamari tenta di superare il valico di Ama, qualcosa va storto. I tre non torneranno mai più indietro. La montagna li ha inghiottiti per sempre. Sono le prime vittime del Nanga Parbat e Mamari è il primo eroe himalayano. Quindi il primo tentativo di conquistare il Nanga Parbat finisce in tragedia. Bisognerà aspettare molti anni perché dei nuovi alpinisti, questa volta tedeschi, decidano di ritentare. Siamo negli anni 30, all'alba del nazismo, e in Asia centrale si svolge una guerra occulta tra Inghilterra e Germania. E mentre gli inglesi tentano la conquista dell'Everest, i tedeschi puntano sul Nanga Parbat. Vogliono dimostrare di essere i più forti, che la loro organizzazione perfetta è superiore alla visione individualistica e un po' romantica che hanno gli inglesi. Ma anche per i tedeschi quella montagna sarà una trappola mortale. Un anno dopo l'ascesa di Hitler al potere, una spedizione parte verso il Nanga Parbat. I migliori alpinisti del tempo affrontano la terribile parete Rakhiot. È un gruppo compatto che non lascia spazio alle individualità. Al comando c'è Willy Merkel. La spedizione, passo dopo passo, conquista quote sempre più elevate e arriva a montare il campo 8 nel Silver Plateau, un'immensa distesa di neve e ghiaccio. Qui Aschenbrenner e Schneider si spingono ancora più su a 7.900 metri. È la prima volta che l'uomo arriva così in alto, quasi a toccare il cielo. Ma il Nanga Parbat non è pronto alla resa. Una terribile tempesta tiene sotto scacco per giorni Merkel, Belzenbach, Wieland e sei Sherpa senza acqua né cibo. È l'inizio della fine. Da ieri siamo sdraiati qui, dopo che abbiamo perso Uli durante la discesa. Stiamo entrambi male. Io, Villo, probabilmente ho la bronchite. Bara Shaib lamenta fiacchezza diffusa e congelamenti alle mani e ai piedi. Da giorni non mangiamo niente di caldo. Per favore, affrettatevi ad aiutarci qui al campo 7. Sono le loro ultime parole. La notte del 12 luglio, Belzenbach si addormenta per sempre. Merkel riesce a scendere ancora, ma anche per lui le speranze finiscono due giorni dopo, quando muore con il suo fedele Sherpa Gai Lai. Ora, la conquista del Nanga Parbat diventa il sacro graal del popolo tedesco, che tre anni dopo tornerà a vendicare i suoi morti. Quelle nove vittime, inghiottite dalla montagna assassina. Domani verrà allestito il campo 5, poi partirà l'attacco. Intorno regnava un silenzio impressionante. Con violenza e chiarezza inesorabili ho compreso la verità. Davanti a me c'era stata una valanga di dimensioni gigantesche sotto la quale è rimasto sepolto il campo con tutti i compagni. La squadra non esiste più. Quello che per i tedeschi doveva essere un sogno si è tramontato in un incubo. Il Nanga Parbat ha ucciso con la sua arma più micidiale, una valanga. Una valanga improvvisa e gigantesca. Per molti anni nessuno tenterà più quella sfida. Poi nel 1953 un medico tedesco organizza una nuova spedizione. A spingerlo non è soltanto l'amore per la montagna, ma anche una vicenda personale. Il suo fratellastro nel 1934 non è mai più tornato da quella montagna. A far parte della spedizione vengono chiamati i migliori alpinisti dell'epoca. Tra di loro anche un austriaco, e sarà lui a scrivere una delle pagine più leggendarie della storia dell'alpinismo. Ascoltiamo la testimonianza di Reinhold Messner. Questa spedizione del 1953 è veramente una spedizione di valore incredibile, per il fatto che le cose sono andate molto stranamente. Il capo spedizione è il fratello di Merkel e lui, molto più giovane, prende dal fratello una specie di obbligo di conquistare il Nanga Parbat e prende anche la mentalità di Merkel. Molto ci attendevamo, ma la realtà supera ogni nostra aspettativa. Siamo sotto la parete Rakhiot. Lo schiantarsi del ghiaccio, i crepitii, i boati, i rimbombi delle valanghe riecheggiano attutiti al campo base. Al di sopra della morena serge una meraviglia della natura scolpita dal sole e dalla bufera. Il progetto di Erlikofer prevede 5 tappe fino alla sella d'argento, il Silver Plateau. Da qui, dal campo 5, le teste di serie Bull, Fraunberger, Kempter ed Ertl aggrediranno la vetta. L'entusiasmo iniziale, però, si trasforma gradualmente in sconforto. I giorni di pioggia e bufera diventano settimane. E proprio quando si viene a sapere che il gigante del mondo, l'Everest, è appena stato vinto, Erlikofer, via radio, ordina di abbandonare l'impresa. Moment mal, Moment. Ja, Walter. Erlikofer sognava la cima, lui sognava di arrivare lassù. Però non si sa ancora oggi perché ha dato questo divieto. Ma il tirolese Hermann Bull è rimasto completamente stregato dalla montagna. Non vuole arrendersi e decide di tentare da solo, nonostante il divieto del capo spedizione. Alle 2 di notte del 3 luglio, Bull inizia così la sua incredibile impresa. Alle 3 supera la Meringa, proprio quell'ammasso di neve che nel 1937 aveva spazzato via un intero campo. E spinto dall'istinto, alle 10 raggiunge le pendici dell'anticima. La vetta ormai non mi interessa più, non ci penso, anzi, non penso a nulla. Cammino e cammino. Arrampico e arrampico. Le ore volano, voglio soltanto salire finché sopra di me non ci sia che il cielo. La cima sembra ormai così vicina da poterla toccare, ma improvvisamente di fronte a Bull si staglia una parete di 60 metri. Le punte dei ramponi grattano il ghiaccio liscio, il volto nudo della montagna nuda. Poi la torre viene vinta. Armato solamente di piccozza, bandierina e macchina fotografica, Bull trascina il suo corpo ormai sfinito verso la vetta e pianta la sua bandiera tirolese. Senza corda e con un rampone rotto, Bull inizia quello che è forse uno dei capitoli più leggendari della storia dell'alpinismo, affrontando una terribile notte a 8.000 metri. Il tempo non passa, il tempo è fermo. Il freddo ti cresce dai piedi e subito sale. Se sopravvivi è un miracolo. Alle prime luci del sole, Bull può finalmente ricominciare a scendere, ma è distrutto. Il corpo risponde a fatica, mentre la mente inizia ad avere allucinazioni. Per ogni passo ora ci vogliono 20 ispirazioni. La gola raschia, la lingua è attaccata al palato. Cade, si addormenta, si rialza e ogni volta ripartire è sempre più faticoso. Il sole ricomincia a calare e Bull, come un'ombra, segue la sua ombra. Poi accade il miracolo, all'alba del giorno dopo, a 41 ore dalla partenza. I suoi compagni Ertl e Fraunberger scorgono Bull scendere dalla sella d'argento. È storia. Ma Ma il medico tedesco non è soddisfatto. Per vendicare la morte del fratello vuole salire in vetta lui stesso. E nel 70 riparte per il Pakistan e questa volta alza il tiro. Vuole sfidare la montagna dal versante Rupal, la parete più alta del mondo. Di questa spedizione fanno parte anche due fratelli altoatesini, Gunther e Reinhold Messner. La vita al campo base si divide tra momenti di relax e salite e discese sulla parete per acclimatarsi e attrezzare la via. Dopo un mese, a fine giugno, viene montato il campo 5 a quota 7200. È da lì che deve partire l'attacco finale. Ma la montagna comincia a dare i suoi segnali d'avvertimento. Incessanti bufere e la minaccia del monsone estivo che sta per lasciare l'Himalaya alla volta del Karakorum. Messner comunque ha deciso. Bisogna tentare. Avvisa il campo base e chiede di comunicare il tempo con il lancio di un razzo, rosso o blu. Razzo blu significava che il tempo rimane bello. Allora mettiamo delle corde fisse assieme e poi andiamo su. Perché abbiamo 2, 3, 4, 5 giorni, nessuno lo sa esattamente. Però il razzo rosso significava il tempo sta cambiando. Allora era soltanto possibile fare una solitaria. Herlikofer aveva delle notizie positive sul tempo al campo base, però manda un razzo rosso e nessuno sa in realtà perché. Alle 2 di notte del 26 giugno, Reinhold saluta Gerhard Bauer e Gunther, che nel frattempo dovranno attrezzargli la via per facilitargli la discesa, e lascia la sua tenda. Ma quando sta per affrontare il canalone Merkel, Reinhold vede spuntare suo fratello Gunther alle sue spalle. Noi eravamo d'accordo che lui sale dopo di me e mette le corde fisse e ritorna al campo e aspetta. Però lui è salito forse perché voleva anche andare lui sulla vetta. Non abbiamo parlato di questo, ma è abbastanza ovvio. Nonostante il caldo sfiancante, la mancanza di ossigeno e l'enorme fatica che ogni passo comporta a quell'altitudine, i due fratelli nel pomeriggio riescono a raggiungere la vetta. Ora tutto appare con un'altra prospettiva. Ma è proprio qui che Gunther inizia a sentirsi male. Le forze lo abbandonano per lasciare spazio a delle allucinazioni. La notte, intanto, li sorprende a 8000 metri. Lui incominciava ad essere lento, a cadere, a sedersi e mi ha detto io non ce la faccio più. E allora eravamo intrappolati. Poi abbiamo dovuto prendere la decisione o scendere, scendendo sulla parte destra o sulla parte sinistra. Sulla parte sinistra c'era l'abisso totale, dall'altra parte, almeno guardando dall'altro, era l'unica possibilità, se non volevamo morire lassù, di scendere direttamente verso la valle. Giù in fondo i due fratelli riescono a intravedere la valle. Superato un ultimo crepaccio, Reinhold aspetta che Gunther lo segua ancora una volta. Ma sarà un'attesa senza fine. Ero talmente distrutto che ho accettato di morire io stesso. E in questi giorni io sono andato verso Frondovalle come uno che fosse fuori da questa terra. Io avevo delle sensazioni come allucinazioni che il fratello fosse con me. Dall'altra parte, razionalmente, col cervello, sapevo che il fratello era morto. Messner è allo stremo delle forze. Non mangia, non beve e non dorme da giorni. Non riesce più a camminare. Il gelo gli ha portato via 7 dita dei piedi. È solo l'istinto di sopravvivenza a trascinarlo fino a valle, dove verrà soccorso da alcuni pastori. In seguito Messner verrà accusato di aver abbandonato il fratello in cima alla montagna per riuscire a salvarsi. Per anni nessuno crederà alla sua versione dei fatti, e cioè che era riuscito a portare Gunther a pochi passi dalla salvezza. Polemiche che non si sono mai assopite, nonostante nel 2005 il Nanga Parbat abbia restituito i resti di Gunther proprio lì dove Reinhold aveva sempre detto che fosse avvenuto l'incidente. E da allora anche per lui quella montagna diventa un'ossessione. Tenterà altre 3 volte di scalarla, ma ogni tentativo si rivelerà un fallimento. Poi, il 7 agosto del 78, Messner si sente pronto per un nuovo attacco al Nanga Parbat. È la prima solitaria su un 8000 metri, senza ossigeno, in perfetto stile alpino. La salita del 78 è la prima solitaria su 8000 metri, una vera solitaria, non dall'ultimo campo, ma dalla base della montagna fino in cima e di ritorno. Dopo 3 giorni di salita, accompagnato solamente dal rumore del suo respiro, alle 4 del pomeriggio, Reinhold tocca la vetta, primo uomo al mondo a conquistare con le sue sole forze un 8000. Ora lo aspetta la discesa. 3000 metri di dislivello tra piramidi e seracchi alti come grattacieli e strapiombi abissali. Fui conscio di ciò che avevo portato a termine solamente quando arrivai a valle. Solo qui realizzai che ero stato veramente sulla vetta. Sentivo che il Nanga Parbat era il re delle montagne e io ero il Nanga Parbat. Di lì a poco Reinhold Messner diventerà re dell'alpinismo mondiale. Senza ossigeno e senza supporto di alcun tipo, scalerà da solo tutte le vette oltre gli 8000 metri presenti sulla Terra. Dopo di lui il Nanga Parbat è stato vinto numerose volte, anche grazie a tecnologie sempre più moderne che rendono possibili imprese estreme. Ma il fascino di quella montagna propone sfide sempre più difficili. Nel 1990 Hans Kammerlander ha scalato il Nanga Parbat per poi discendere con gli sci. Nessuno l'ha mai fatto da una vetta così alta. Dopo il terzo salto sento uno schiocco sordo sotto di me. Mi fermo. Per un pelo riesco a non cadere. Conosco quel rumore. Nei minuti seguenti sotto di noi si scatena l'inferno. Metro dopo metro la massa di neve aumenta e si muove a velocità sempre maggiore finché non riempie tutto il canalone. Poteva andare diversamente, ma siamo stati molto fortunati. Poi una gigantesca nuvola bianca ha avvolto tutto. Siamo nati e un giorno moriremo. In mezzo c'è la vita. Io la chiamo il mistero, del quale nessuno di noi ha la chiave. Siamo nelle mani di Dio. E se ci chiama, dobbiamo andare. Se veramente non dovessimo più ritornare, sarebbero in tanti a dire cosa sono andati a cercare lì. Una sola cosa è certa. Chi non vive la montagna non lo saprà mai. La montagna chiama. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.